Ecco, noi Dana Scotto di Fasano dell'associazione Pensiamo Insieme per parlare del Festival del Pensare dal 18 al 24 luglio. Dana, ben trovata. La ringrazio, buonasera, sono contenta di poterle dire qualcosa del nostro festival. Quest'anno il titolo è Viaggio, se non sbaglio. Viaggio, a nostro parere meglio senza articolo, perché abbiamo pensato che dà il senso di viaggio, nel senso il viaggio, cos'è il viaggio nella dimensione dell'uomo, cosa significa oggi, come lo possiamo pensare attualmente, però anche nel senso di io viaggio, ecco perché volutamente viaggio e basta. Chi viaggia oggi, quello che parte col viaggio cosiddetto della speranza, quello che va in vacanza e vuole scordarsi di avere un'altra vita altrove, quello che viaggia quotidianamente, il flaneur, anche nella propria città, Verne, per esempio, senza muoversi mai. Ecco perché viaggio. Sì, tutto parte dall'associazione Pensiamo Insieme e ce ne parla un po'? Certo, quattro amici e due coppie, pensiamo una sera a cena alla desolazione di una società in cui sembra che il pensiero perda sempre più valore, senso, significato, e ci chiediamo, mio marito Marco Francesconi, a un certo punto parla nei termini di la mente mente, e il compagno dell'altra signora, di Pia Pagani De Marchi, che è la nostra presidente attualmente dell'associazione Pensiamo Insieme, dice: ma perché non facciamo un festival a partire da questa questione? Così la prima edizione fu proprio la mente mente, col punto di domanda. E altri amici, poi altri colleghi si sono uniti, oggi siamo circa una ventina e crediamo molto, sempre più, nel senso di questa proposta al pensiero. Allora, il festival si svolge in più luoghi e dà più appuntamenti. Ce li presenta? Allora, i luoghi sono quelli della cosiddetta costa etrusca e ci siamo via via ingranditi. All'inizio eravamo solo in ordine alfabetico, Casale Marittimo, Guardistallo, Monte Scudaio, tutti e tre in provincia di Pisa. Poi nella seconda edizione si è unito il comune di Cecina, provincia di Livorno. Quest'anno, quarta edizione, abbiamo con noi anche Castagneto Carducci. Quindi, perché più luoghi? Perché speriamo in questo modo di dare valore e visibilità anche a un territorio molto conosciuto per Volgheri, per San Vincenzo, meno conosciuto per questi nostri contesti che sono veramente molto validi sul piano delle proposte culturali, sociali, anche del vino, del buon mangiare, dell'olio, dei panorami stupendi, del contesto, ecco, valore a questo contesto. Ci saranno una serie di incontri e di che tipo? E gli incontri vogliono rivolgersi sempre a più tipi di utenti, quindi all'intellettuale puro, al viaggiatore e basta, al turista, al maestro, al genitore, all'adolescente. Quindi le proposte vanno dal concerto di musica rock, per esempio, sabato 21 all'Arena di Marina di Cecina, a un teatro d'impegno, di sostegno alla integrazione, che il Teatro dell'Orsa quest'anno porta a noi Fuochi. Gli anni scorsi abbiamo avuto due volte di fila Kemmerle, quindi un teatro impegnato, però fruibile a più, non incomprensibile. Piuttosto che un film bellissimo come quello di Italo Moscati, 1200 km di bellezza, che a partire da spezzoni di Filmluce fa una reportage sull'Italia com'era, l'Italia da salvare. piuttosto che Mattotti, il grandissimo illustratore, una sua mostra poi per pura coincidenza è al Palazzo Blu di Pisa, in perfetta appunto coincidenza con il nostro festival, è uno dei nostri relatori a Casale Marittimo domenica 22, poi un filosofo internazionalmente noto, grandissimo, come Remo Bodei, Vittorio Lingiardi, psicoanalista, psichiatra, poeta, che con il suo ultimo libro Mindscapes ha vinto il premio Viareggio in questi giorni, e poi Gabriele Rosa, questo allenatore noto a livello internazionale che ha portato alle Olimpiadi giovani kenyotti salvandoli dalla strada, medaglie d'oro alle Olimpiadi, d'argento, di bronzo, e poi anche ragazzi con la sindrome di Down alla maratona di New York quest'anno, piuttosto che per esempio Roberto Ghidoni, che è chiamato dalla stampa americana Running Wolf perché ha vinto più volte la famosa corsa in slitta con cani d'Alaska. Insomma, abbiamo offerte per appassionati di viaggi inverosimili, appunto come questo in Alaska, di grandi atleti, di intellettuali puri, di poeti come Lorenzo Mattotti, piuttosto che laboratori gratuiti, tutto è gratuito. E abbiamo, scusi, sta parlando? No, sto ascoltando. Ah, ok, la ringrazio, sentivo una voce. Piuttosto che laboratori, due di photo walking, quindi uno con Maria Odilia Consiglio e l'altro con Bacci e Bettini del luogo, che porteranno chi vorrà appunto fare questo percorso di cammino e fotografia a scoprire la Val di Cecina, e poi uno interessantissimo, l'inventore della buiometria partecipativa, cioè della rilevazione dell'inquinamento luminoso, che si svolgerà ovviamente di notte per rilevare, che intanto insegnerà a chi si iscriverà al laboratorio come si fa la rilevazione dell'inquinamento luminoso, per poi portarli a farlo verso la mezzanotte, questo di mercoledì 18 a Cecina. Bene. Per tutte le informazioni c'è un luogo internet di riferimento? Abbiamo il nostro sito www.pensiamoinsieme.org. Benissimo. Allora, ricordiamo la quarta edizione del Festival del Pensare dal titolo... Con il patrocinio di Rai Cultura per il secondo anno successivo. Bene. Il titolo è Viaggio dal 18 al 24 luglio. Un ringraziamento e un saluto ad una delle curatrici, Dana Scotto di Fasano. E Dana, un saluto, un ringraziamento, un in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie mille per questa occasione. Buona serata.